Carissimi amici di Runtime Radio, l'eleganza prima di tutto, soprattutto quando si tratta di noi OGM oltranzisti gastricamente maleducati, che penso sia questa la nuova definizione. Sento dei rumori di cellulari che mi entrano dentro le orecchie ma non fa niente. Benvenuti e bentornati a tutti quanti. Questa è OGM che è ritornata dopo un periodo di pausa così, di riflessione mistica, religiosa e anche mastica e politica. E con me abbiamo... Ricordatevi, Marco Gualdi. Mastica proprio pesantemente. Bella sta sigla, bella introduzione, bella musica. L'eleganza. Bella tutta. Tu l'hai mai visto quei video su YouTube di quelli che fanno? No. Il citofono? No. Ma quello è il citofono. Ci sono questi video su YouTube di ragazze che ne so, leccano la caramella e c'è tutto questo rumore, capito? E vanno una cifra, non ragazzi, mi ricordo come si chiama. No, ragazzi, solo ragazze, prevalentemente ragazze. Poi non so se lo fanno anche effettivamente anch'io. Come succhiano le caramelle delle ragazze, esatto. Cioè, è diverso. Walter Sbano! Bentrovati a tutti, ragazzi. Allora, adesso saluto tutti perché siete tanti, siete tornati tutti. Però in particolare ma devo... chi ve lo fa fare? Chi ve lo fa fare? Ma mi devo prendere un momentino di autocelebrazione, perché l'effetto sigla nuova ha funzionato benissimo. Tant'è che mentre partiva, il buon Piergi dice: ammazza, avete scomodato persino Strauss per la sigla, buono, non ha fatto in tempo a dirlo, che ha chiuso con, esatto, con un come non detto, perché ovviamente non potevamo esimerci da Strauss a Squaraus, esatto, sì. Perché noi, e lo abbiamo spiegato, l'ha già detto Simone, siamo OGM, oltranzisti gastricamente maleducati, primo segno del cambiamento, della nuova direzione editoriale di questo show, di questo format. Ma di cui andare fieri anche. Di cui andare di corpo. Esatto. Vabbè, fammi salutare gli amici, perché sono veramente tanti questa sera, tutti tornati diciamo in gran spolvero insieme a noi. Abbiamo Davide Gatti, abbiamo Zio Mischi, abbiamo Diego Van Morgen, abbiamo Lobster Frontalen, abbiamo Giuseppe Pugliese, abbiamo Enrico, abbiamo Pier G, abbiamo noi altri, perché noi contiamoci anche come pubblico una volta tanto, ti pare? Beh sì, diciamo che siamo tutti con la chat per fare numero noi. Del resto noi quando non parliamo ascoltiamo, quindi siamo anche pubblico, non fa una piega. Ma infatti volevo staccarsi a sentirvi, però vabbè. Mi piaceva lo stacchetto jazz, Pizzi, perché l'hai tolto? No, c'è. Ascolti. Io direi che possiamo tacere e ascoltare per un'ora un po' di musica jazz. Anzi, sai che faccio? Così, ragazzi, perché questa un po' Cowboy Bebop, va. Questa è una serata musicale, ci sarà anche della musica questa sera, parleremo di cose importanti, soprattutto tutto quello che ci siamo lasciati dietro da quando abbiamo smesso a quando abbiamo ricominciato. Perché sono successe cose pesanti, no, diciamolo. Tipo per esempio, OGM a un certo punto non c'era più. Sì, e perché è stata una brutta, cioè serviva un momento per, come dire, a bocce ferme, per fare un attimino il punto della situazione e ricominciare con più energia di prima. Nel frattempo poi tralasciamo che abbiamo rischiato, no, non lo tralasciamo, però buttiamola lì, abbiamo rischiato una terza guerra mondiale termonucleare, ma cosuccia, no, insomma, no? Sono tutte cazzate, no. In realtà voleva soltanto firmare una cosa coi dazi. Ma no, ma poi ci avete fatto caso? Famo la guerra, ti tiro la bomba, ti ho tirato pure la bomba. Vabbè, ma tutto a posto, giorno dopo tutto a posto. Oh cazzo, mo buttato giù quelli che c'entravano un cazzo. Ma poi, porco, sì, al suono di ops si è fermata l'escalation. Oh regà, capita. No, mi dispiace Zio Mischi, questo brano non ha nome, non posso dire. Si chiama Luppe. Si chiama Loop di sottofondo. Oh, e salutiamo anche Michela De Paola, che ci dice c'è ma non c'è, perché è un po' come la Michela di Schrödinger. Diciamo che ci sono ma ci faccio, anche secondo me si legge anche così. Attenzione che potrebbe arrivare una ciabattella e ti prende sulla nuca. Dipende, attenzione. Secondo me no. Bene. Possono arrivare i gatti probabilmente. Anche quelli sempre. Vabbè ragazzi, insomma, voglio dire, la carne al fuoco mi pare di capire che è tanta, solo che non abbiamo acceso la brace. No, ma io non mi ricordo niente, devo dire la verità, so soltanto che questa cosa si ripete costantemente, questa cosa del te faccio la guerra ma poi siamo amici. Non siamo più amici, te faccio la guerra, no, però siamo amici. Quanto sta l'ultimo sondaggio? No, un altro po' di guerra. Ah, guerra. Vabbè, ovviamente spieghiamolo, no, cos'è l'escalation? Bravo, nasce, dai, spiegalo tu, che io mi circondo delle robe. A un certo punto sapete che Trump si è trovato coinvolto nella procedura di impeachment, che alla Camera è passata, perché alla Camera c'è la maggioranza democratica. Ma poi quindi... sempre con sto Trump, raga, ma cioè, ma poraccio, ma lasciato fa, no? Ho capito, ma è lui che c'ha il pulsantino, né? Gli altri, come dire, la famosa valigetta atomica ce l'ha il presidente degli Stati Uniti. Per esempio, Berlusconi c'è la pompetta invece. Berlusconi ha la pompetta, esatto, esatto. Tra l'altro, insomma, c'era pochi giorni fa queste cronache dal processo Rubiter, Ruby Bis, no? Che si parlava del fatto che lo cavalcassero durante questi eventi, no? Durante queste cene eleganti, pare che le ragazze a una cavalcassero il toro meccanico. Solo che non era tanto un toro, ma forse un po' meccanico, sì, probabilmente sì. Nel frattempo, intanto scusa. Partono dei suoni nell'orecchio. No, è qui la regia, stiamo lavorando per voi. Sono dei bei suoni. Esatto. Comunque, prego. No, dicevo, cosa è successo? Che a un certo punto Trump ha visto che, come dire, a un anno scarso dalle elezioni, quindi Trump spera di ricandidarsi e di essere rieletto, però facile anche che ci riesce, perché ormai non, diciamo, perché stupirsi di questa possibilità? Io penso, no? Che è anche giusto, insomma, che lui ci... perché insomma, bisogna dargli la possibilità. Ha fatto tanto per... Certo, perché se per qualcuno, con questa legislazione cioè lui ha fatto per tanto qualcuno l'ha fatto sicuro. Ricordiamoci, ha negato il cambiamento globale climatico, non c'è mai stato. Vuole ripristinare le centrali a carbone, tutte cose innovative. Poi voglio dire, se con questo governo ha portato il mondo sull'erba del baratro, io ho capito che sbano rosica, perché Trump ha bonificato l'agropontino. Cioè, io lo so che è così. Ha bonificato a tutti tranne che a me. Il mio conto è sempre in rosso. Non t'ha bonificato a te. No, deve essere per quello, l'astio che latente che nutro. Quello forse lo capirei pure io, però un pochino. Alla fine tutto si riduce a una questione puramente, come dire, pecuniaria, mettiamola così. Ma pure la guerra è sempre una questione pecuniaria, sì. No? Sta lì a tiri la bomba, perché? Perché queste bombe stanno parcheggiate da troppo tempo e chi produce le bombe gli dice: oh regà, guarda, qui ho capito, stanno ragazzi, scadendo. Ma non è la paura della bomba, la bomba stessa? La bomba? Sì. Ma la bomba in quanto metafora di se stessa pure un po'. Sì, anche perché poi questa la capisce solo Alex Raccuglia, però vabbè. Ricordiamoci, ragazzi, che se per caso uno dovesse fare l'errore di scagliare la prima pietra, poi sarebbe veramente una guerra termonucleare globale, perché a quel punto svuoterebbero gli arsenali e, come dire, a chi tocca anzi ingrugna. È un però po' come scarica il cesso, praticamente, no? Sì, col fatto che però noi siamo sotto lo sciacquone. Ma insomma, io, guarda, nella mia infinita saggezza ho sempre sostenuto che secondo me la guerra nucleare è finita il giorno stesso in cui è iniziata. No, però, sì, certo, è chiaro. Del resto... Ha vinto il buon senso. No, tra le cose passate un po' più in secondo piano, ma diciamo, come dire, amaramente divertenti di Trump, ce ne ricorda una, zio Minsky, perché fondamentalmente che ha fatto? Ha cancellato la riforma delle mense scolastiche voluta da Michelle Obama, che aveva portato, diciamo, un po' meno di carboidrati, un po' meno di zuccheri nella dieta dei bambini, che sappiamo il bambino americano medio è gravemente obeso a causa della dieta. Vabbè, però scusa Walter, no, perché... Scusa Walter, che io sono il signor McDonald, sì. Faccio rispondi. Pronto? Donald. Sì, io sono Mac. Io sono Donald. Non mi fate incazzare, perché io mi serve fare soldi qui, che questa cosa di bambini che non mangio. Vabbè, però scusa, la gente al citofono. Scusi, posso smettere di leccare le patatine? Sì, prego, smetta. Sì, però okay. Le posso dare un consiglio? Ce le faccia prima friggere, perché se le lecca surgelate si potrebbero attaccare alla lingua. Bello schifo. Comunque, Donald, mi raccomando, questa cosa della mense, non ci siamo. Ma fatto Donald sta che, insomma, Donald ha subito richiamato all'ordine e ha detto: basta, è giusto che il bimbo obeso americano possa mangiare hamburger e patatine nella mensa scolastica, morire, perché è quello che il bambino americano vuole, grazie alla lobby degli hamburger e alla lobby del diabete, perché ragazzi il diabete sta spopolando, sta diventando la nuova moda, no? Non so se lo sapete. Se non c'è il diabete non sei nessuno. Esatto, se non sei iperglicemico o ipoglicemico non sei nessuno. Io conosco io lo sento in sottofondo a lui. No, io conosco almeno 4-5 persone che hanno il diabete, ma pesante, tipo quello che si devono fare iniezioni di insulina, perché loro sono persone della moda. Esatto, perché allora una volta i nerd, ragazzi, erano sfigati, oggi i nerd vanno di moda. Massimo rispetto per il diabete, perché da vivere la mia azienda in questo periodo, quindi ce se magna pure su esatto, quello. Esatto. Scusa. Esattamente, e insomma, visto che, no, vabbè, insomma, quindi voglio dire, non è come dire, noi ci siamo presi una pausa, ma il resto del mondo no. E perché avremmo dovuto far contrario, dovevamo prendersi in pausa il mondo e andare avanti noi, però il problema è che non funziona, non ci riusciamo. Dice Pier G, diabetes the new gotta, sì, però è anche meno divertente prenderlo, nel senso la gotta perlomeno un pochino ti divertivi per, come dire, diabete, anche se in realtà la gotta era data dalla cattiva alimentazione. Mangiavi troppa carne. Mangiavi, sì. No, diciamo che succedeva quando tu passavi tanto tempo in mare e mangiavi tanta carne essiccata perché non c'avevi la possibilità di compensare con delle verdure. Succo di limone. Esatto. E anche lì, proprio... tu ricorda che tipo nel 1300, 400, quando facevano 1600, quando facevano state la sferata, tu ricordi, c'era Mac, c'era sempre Mac. McDonald's. Ho detto, non è facile ricordarmi, tu c'eri o no nel 1300, scusa. È vero, hai ragione. Lui è del 1400. Quasi 1500. Infatti, sì. quindi... C'era sempre McDonald's pure lì che però faceva cose un po' diverse, diciamo. Mamma mia, qui stiamo entrando spericolosamente in una spirale di discorsi seri in chat, perché ovviamente Pier G parla proprio diciamo in termini timorati del diabete, perché effettivamente dice mio padre ce l'ha e non, non è una bella cosa. No, io lo capisco, capisco che anche mio padre ce l'ha. Però sicura per la gotta. Il problema è che tu vada sicura per la cotta e non funziona. No, non prendere per il culo i padri degli altri, per cortesia. Ricordate, sai chi è che c'aveva il diabete? Bettino Craxi. Sì, era un diabetico famoso Craxi, anche perché quando negli ultimi anni ad Amamet gli hanno tagliato il piede. Sì, esatto, ha rischiato di brutto, perché lì le terapie erano meno... Ma di brutto, brutto, brutto. Anche se pensa a uno potente come Craxi, ad Amamet in esilio aveva difficoltà a trovare l'insulina. A proposito di Amamet, di Craxi, in questi giorni è uscito il film con Pierfrancesco Favino. Sono curioso, devo ammettere che sono curioso. Oh, salutiamo anche Shuren, ciao Shuren, ben trovato, veramente oggi sono tutti, sono proprio contento. E dicevo... Chi ve lo fa fare? La domanda, no? Adesso c'è questo tentativo... Peraltro portato avanti da personaggi che è strano mettere insieme, perché da una parte diciamo così pseudofilosofi come Diego Fusaro, dall'altra pseudopolitici come Renzi. Stai detto Diego Fuser? Sì, no, Diego magari Fuser, Diego Fuser, magari Diego Fuser, grande Diego Fusaro, Fusaro. Anche Renzi, che dicono che insomma stanno cercando, come dire, di riabilitare un po' la figura di Craxi, cercando di farcelo passare come un grandissimo statista dei suoi tempi. Io no, allora io devo fare un discorso serio su questa cosa. No, la politica è scacciafiga. Lo so, però no, bisogna non dire. Ce n'era lo stesso. Allora, innanzitutto. C'è giusto la povera Michela, ma secondo me sta dormendo già. Innanzitutto, io penso una cosa importante, cioè che quella che oggi mi vengo a dire è la stessa meglio quando c'era Craxi. Se penso che veramente è un loro impianto. Beh, Simone, questo discorso abbiamo fatto tante volte. Esatto, io ero lì a tirargli le monetine, però oggi dico. È anche però... vero che se stavo peggio oggi è anche perché si stava troppo bene prima. E che quelli di prima si sapevano accontentare. C'era sicuramente una torta più golosa da spartirsi, adesso c'è rimasta poi se parliamo di statismo, cioè nel senso della capacità di gestire anche dal punto di vista internazionale la propria posizione di capo del governo, secondo me Craxi. Non gli potevi di niente, le capacità i politici sono finiti negli anni 90. Esatto. Diciamo che le capacità politiche degli uomini di quell'epoca c'erano, nel senso che erano effettivamente anche se eri incapace, eri comunque al confronto di oggi era uno statista, cioè, come se venivi qui, se paragoni il classico peones degli anni 80, veniva qui oggi probabilmente diventava capo del governo. Se tu paragoni un Paolo Cirino Pomicino dell'epoca, che faceva ridere già quando apriva bocca, ad un Razzi, uno Scillipoti di oggi, vabbè, allora Cirino Pomicino però tornavo sempre, a parte che erano delle eccezioni, erano delle eccezioni, però un De Mita e un Cirino Pomicino, cioè avevano il loro bacino d'utenza che era comunque costruito per altri fattori, quindi cioè voglio dire comunque la loro potenza politica rispetto a un qualsiasi tipo di politico di oggi, cioè era, cioè, stavo parlando di un'altra lobba, ragazzi, cioè non c'è niente da fare, di un'altra lobba. Di un altro lobby. A proposito lobby, raccontaci perché sei passato dal lobby frontali al lobster, come mai c'è stata questa digievoluzione? È carina la battuta che ha fatto lobby frontali, molto molto geniale, perché dice che lui ha provato a scaricarlo, ma il file era corrotto, è vero, grande, lo rilasciano già corrotto quello, non si sa perché. Forse ce l'abbiamo un applausone, tiè. Ma fiacchezza! No, è che c'è il Dagi. Che schifo, la tecnologia non ci aiuta. Vabbè, parlate tanto di... Aspetta, Vabbè, ma insomma, la politica, se, così... La politica basta, io basta, mi sono già rotto le palle della politica. Parliamo di sport. Parliamo perché... di qualcosa di allegro, tipo Di Maio, come città, dai. Mamma mia, no, ragazzi, qui siamo alla... No, io tra l'altro, vorrei fare un break, scusa, a questo punto, se mi permettete, vorrei fare un piccolo break, così organizzo anche degli assets che dovevo poi organizzare. Cioè, stai fa adesso il lavoro dei mesi. Esatto, okay, di quello che avrei dovuto fare prima. Va bene, no, no, ma però cioè, è importante questa cosa perché secondo me ci sono alcuni brani musicali che hanno fatto la storia della musica e che meritano di essere ascoltati altrove. Sono d'accordo. Meritano insomma un tributo assolutamente importante. Ci ascoltiamo subito dopo questo brano che insomma lo riconoscerete immediatamente. Just kill a man, pull a gun and gang is dead, pull my trigger, love is dead. Love has just begun, but now I'm gonna drive it all away. Mama, if I'm not back again this time, come on, carry on, carry on, it's nothing really matters. Che dire, Freddy, ci manchi tanto. Dobbiamo fare i complimenti perché riesce a passare da 5 ottave sopra a 2 sotto il rutto, è un fenomeno, insomma. Quindi voglio dire, io ragazzi, questo è neanche Axel Rose dei tempi d'oro, questa estensione. Questo è il grande root mysterio, che io vi ricordo che nell'ultima puntata storica di Multimanie ho rischiato, mi si sarà proprio chiusa la infatti, e infatti Piergi ha subito colto il parallelismo e ha detto direttamente dallo speciale Multimania il ritorno. Bravo, bravo, vedi. Beh, ragazzi, quando uno ci segue, chi l'avrebbe mai detto? Scusate, abbasso la base perché... Comunque ho intenzione di comprare uno strumento che ci solverà tutti. Piergi comunque non si è ripreso perché dice questo è più sacrilego dello sciacquone dopo Zarathustra. Proprio non si è ripreso dalla nuova sigla. Pensa, l'ascolterei tutte le settimane, Piergi. Esatto. Se avrai pazienza di seguirci. E forse la miglioreremo anche. Però questo potrebbe essere la sua scusa per non ascoltarci più. Perché noi abbiamo lanciato questo contest. Esatto, ragazzi, che non è un contest. Fatemelo ricordare perché... Allora, vi ricordo che... Quello che tra di voi ci fornirà la scusa più divertente, più carina e più originale per non ascoltarci, quindi la giustificazione come a scuola. Mandateci messaggi. Esatto, infatti. Quindi diteceli o mandateceli, vincerà una cena tête à tête con il distruggitore. Infatti, io non pago. Però non paga lui. Sì, dovete pagare voi. Però quello, però scusa, ma sì Marco, però c'eravamo detti, non lo diciamo, perché sennò mo adesso è un problema, vabbè. Però insomma, comunque, se siete persone caso, di... Mandate messaggi, noi abbiamo un gruppo Telegram. Sì? Tra l'altro. Ce l'abbiamo? No, non ce l'abbiamo. Che cazzo facciamo? Vale quello di Morti di Bestemmie. Allora, Morti di Bestemmie, MDB The Original, se non sbaglio. Cercatelo su Telegram. MDB Open, credo che si chiami. No, The Original One. The Original One, sì, quelle sono abbastanza... Ah, The Original, ok. Mandateci le vostre registrazioni sulla scusa che utilizzerete per non ascoltarci da lunedì in poi, perché stasera purtroppo siete costretti. Quindi le iscrizioni sono aperte. E vi ricordo che affermare che non servono scuse non è una scusa. Assolutamente no. C'ho bisogno di una scusa. No, io intanto sto continuando a lavorare sugli assets, quindi voi... continua a lavorare. Ma Marco, intanto dici che tipo di cena vorresti condividere con il vincitore del contest? Cosa vorresti? Etnico, però sono deciso tra lo spagnolo, la bella calamaratas, un calamaros gigante. La calamaratas non è proprio un tapas, è un po' più campanas, però va bene. Però un bel calamarones. Sì. C'è stato i calamari. Però, sì, però la calamarata è il tipo di pasta fondamentalmente. No, proprio il calamaro, la bella calamarata. Sì, certo. Nel senso, ecco, bello, gigante, arrosto. Ma poi ci arriviamo al calamarone. Cioè, il calamarone è sempre... Dobbiamo arrivare. E poi un bel ristorante solo di legumi, secondo me, adatto al contesto. Perché poi sì, poi legumi prima, però prima, durante e dopo. Certo. Quindi Fante Cavallerea anche un po'. Esatto. Bisogna pensarci. Comunque mandateci le vostre No, Piergi, il gruppo Telegram è quello di MDB, non ce n'è uno di OGM, Cioè ce n'è uno, ma cioè cazzi nostri. No, è tecnico, non è... Si chiama proprio cazzi nostri. Sì. Non è possibile scriverci, mi spiace. Esatto. Ma è anche dice anche tipo giusto, che la, sì. Ci mandate anche su Gmail quella che controllate tutti i giorni. Va bene, sì, hai ragione, non la controlliamo più perché ultimamente diciamo non era proprio. Ma noi nessuna mail. Comunque ogm.runtime@gmail.com me la ricordo, esiste. Da adesso in poi Sbano si prende l'incarico di guardarlo almeno una volta al giorno. Abbiamo un vocale di Lobster proprio su MDB, lo riusciamo a mandare in diretta, Pizzi? Assolutamente no, cioè, a meno che non c'hai Telegram sul computer ma scusa, mi capisco dal ginocchio, tu mi devi solo aprire il canale, insomma. Open the canal. Open the canal, come dicono a Suez. Prova un po', vediamo un po'. Vediamo, Non ascolto UGM perché devo andare a scopare. E chi mi conosce sa che per me è una cosa molto originale. Ah beh, vabbè, oh, se fosse che per quello... Però voglio dire, non ti potremmo biasimare, originale o meno, insomma, cioè, voglio dire... Non hai capito lo spirito della cosa, non hai capito lo spirito della cosa, come al solito sono veramente deluso, sto caricando un asset, ragazzi, scusate che non sentite il sottofondo, lo so, ma dalla prossima puntata vi giuro che funzionerà tutto talmente bene che direte... Come se fosse quella la prima puntata. Esatto, pensa che la prossima puntata sarà così rodata e così fatta bene che ci avremo già una defezione probabilmente, però non anticipiamo i tempi. Vabbè, ma questo fa parte oramai della nostra tradizione, ma se ci riesco porto un ospite. Dai! Se ci riesco. Si riesce a catturarlo, però certo sarà poco, diciamo... Un giorno sarebbe fico riuscire ad avere come ospite Pizzi Senior. Sai quante ce ne può raccontare? Ma che sei matto? Quella è minacciosa la questione. Che chiamerebbe dai carabinieri, quindi. Beh, figo, in diretta. Li facciamo chiamare in diretta. È fichissima questa cosa. Secondo me la Sciarelli ci fa un baffo. Li facciamo rispondere Lobby, però. Figo, cioè, figo. Potrebbe essere. Tutta una serie di... in quel caso, in quella puntata, ci dobbiamo essere veramente, veramente tutti, perché deve essere proprio l'apoteosi di Runtime. Del tutto. L'apice, proprio, come dire, l'epigono. E poi far saltare tutti. L'ipogeo, sto sparando termini grecofoni a caso proprio. Dai, allora, Sbano, che cosa hai fatto in questi mesi di assenza? Raccontaci allora, la mia assenza è stata, come dire, alla ricerca colma della buddità, colma di bestemmie, perché per esempio c'è stato Natale, chi è stato buono ha avuto... Ha avuto? Io ne ho ricevuto uno bellissimo, piovuto dal cielo sotto tutti i punti di vista. Bello, quando sono inaspettati. Esatto, regalo, inaspettato e piovuto dal cielo. Proprio come una tegola che a causa del vento si stacca dal terrazzo di un palazzo di quattro piani, tra tanti punti dove poteva precipitare, sceglie il tetto della tua macchina. Sulla testa di Gigi il porchettaio. Di Gigi, esatto. No, invece no, il tetto della mia macchina che si è prontamente bucato da parte a parte. La tegola è rimasta dentro o è... No, la tegola è stato bello perché la tegola si è frammentata e alcune parti, tanto per ribadire, sono andati anche a scheggiare il cofano della macchina di Valentina, che era a pochi centimetri dalla mia. Quindi è rimbalzella, insomma. Sì, il danno nel suo caso è stato minore, però la bestemmia è stata per certi versi ancora maggiore perché lei... Anche lei è una macchina usata, non nuova, però l'aveva presa da un mese, quindi insomma... così. Cosa che succede? Fatto sta che io, insomma, era una domenica mattina, sono dovuto intervenire con i pochi mezzi a disposizione per metterci una pezza, anche perché quei giorni pioveva. Che era lo scotch? Quasi, no, praticamente c'è chi ha le tette al silicone, io avevo il tetto al silicone, perché ho dovuto inventarmi un tappo di silicone per sigillare alla meglio il tetto della macchina. E dove già avevi visto tappo al silicone? Molto stavo per dì. E quindi insomma, poi da lì si potrebbe raccontare che riparare la macchina è stata una peripezia, perché i preventivi a Roma superavano il valore della macchina su quattro ruote. Quindi insomma, da che mi ero quasi rassegnato a tenerla come fosse una sorta di cabrio. Questo è perché non sei andato dal sindaco. No, e non le ha vinte le elezioni, non è sindaco. E quindi niente. Quasi sindaco contro tutto. Sì, e quindi fondamentalmente poi fortunatamente l'ho fatta riparare a Napoli da Valentina, dove per un terzo scarso della cifra mi hanno rifatto tutta la macchina. Ma che cazzo tu hai una ragazza che gli fai riparare la macchina, cioè, no, non lei, non l'ha riparata lei, cioè, l'ho riparata io. Mi hanno rubato una nuova uguale alla tua. Esatto, ho detto anche le chiavi. Perché io sono 3.000 euro, tipo così. Considera che a Roma solo per... Ma hai raccontato quando dovevo comprare il motorino? Un amico mio doveva comprare il motorino lì a su Porta Portese, no? Cioè, nel senso, quello diceva: oh, che se c'ho l'annuncio del ciao, volevo sapere di che colore ce l'avevi, perché di che colore vuoi? questo è indicativo, no, no, è molto indicativo questa cosa. Sì, sì, esatto. No, allora, per rispondere a un paio di domande in chat, intanto è anche a Gualdi, dice, e mo chi paga? Purtroppo pago io, perché è inutile dire che il condominio, la palazzina era della socera, quindi che gli paga dici, pantalone, ma non era assicurata. E quindi fondamentalmente, però la cosa positiva, cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, io c'era drammaticamente vuoto, soprattutto dopo questa spesa, però vabbè. Diciamo che a Roma mi hanno chiesto dai 2.500 ai 3.000 euro solo per riparare il tetto, perché la spiegazione è stata che è un lavoro difficile, il tetto si dissalda, si mette quello nuovo e bla bla bla. Invece a Napoli, che sono assolutamente proprio un'altra cosa, cioè hanno un senso pratico in queste cose, dice no, qual è il problema? Il tetto si tira, si stucca, si vernicia, torna come nuovo. In effetti è così, o se ruba dall'altra macchina è probabile. Fatto sta che comunque sia, diciamo che la riparazione del tetto è costata solo ormai, come la prendo bene, 500 euro. Con altre 400 ho rifatto tutto il resto della macchina, che adesso effettivamente sembra nuova e non di 10 anni macchina. Sembra proprio un'altra macchina, proprio un'altra macchina, esatto. Siamo contenti che sembri un'altra. Oh, e come dice appunto Pugliese, per Giuseppe Pugliese, chi paga? Pago io. Invece ci racconta Davide, dice Davide Gatti, cioè, questa è una cosa non troppo bella, ma dice, circa 40 anni fa dal decimo piano del palazzo è volato giù un cassetto di una cassettiera messa su un balcone ed è caduto in testa ad un mio compagno di classe. Ah, morto? Un ex compagno di classe. Forse è meglio, speriamo sia morto, perché qualunque altra cosa è peggio, secondo me. Potrebbe essere peggio, ma diciamo che lui a Milano ci sono abituati, perché ricordiamo, insomma, gente che tirava motorini dal terzo anello della... Esatto, i famosi volano motorini a San Siro. No, Giuseppe, non posso minacciare nessuno, perché la palazzina familiare, i condomini sono mia suocera, la mia ragazza, sì, la sorella della mia ragazza. Ma poi a Napoli non minacciare nessuno. E poi a Napoli non minacciare nessuno in generale, effettivamente. Al massimo chiederesti cortesemente, ma sapendo già la risposta. Dice Piergi, non hai la casco? Ha detto Michela di no, questa battuta così, come dire, comica. No, non ho la casco, anche perché la macchina ha 10 anni, cioè, ma chi me lo faceva fa? Ecco, diciamocelo. Però fatto sta che comprarne un'altra era impossibile, quindi così. Vabbè. Però dai, insomma, questo è stato il mio regalo di Natale. Bello. Tanto per dire, cosa hai fatto durante questi mesi? Ho bestemmiato, che non è una novità. Io faccio cose, ma non so perché non vengono registrate, cioè, nel senso, vabbè. Ah, fai cose, vedi gente, quindi insomma tu che sei un vivere con un uomo di mondo ci potrai raccontare questo paio di mesi circa di quanto siamo mancati, ragazzi, voi che ci seguite, ma chi ve lo fa fare, quanto io siamo mancati? Sì, tipo, no, ma quando mai? A settembre abbiamo ricominciato no, credo che fine novembre, Zio Mischi, tu che hai sofferto tanto la nostra assenza, guarda, ti vado a verificare con i dati empirici. Ah, basta cliccare il nostro show su Spreaker, andiamolo a vedere, ve lo dico subito. La puntata precedente risale al 23 ottobre. T'ho detto io. Mamma mia, ragazzi, c'ho voglia di fare un cazzo quest'anno. 23 è bucio di culo, ovviamente. Ci aveva preso un po' di scala. Allora, io che cosa è successo? Devo dire che sono successe un sacco di cose, ma non me ne ricordo. Ma non me ne ricordo una. Quindi devo fare mente locale. Siamo andati. No, io posso dire una cosa. Siamo andati fuori. Se proprio la vuoi dire, a Natale siamo andati fuori. Ah, siamo andati fuori, è vero. Siamo andati a Torino. Siamo andati a Milano e poi siamo andati a Torino. E abbiamo visto queste due città che sono distanti circa un'oretta l'una dall'altra, insomma. Forse quasi due, dai. No, sì, insomma, dai, un'oretta e mezza, dai, su, non giriamo, se no lo chiediamo a Cortana qui, poi dopo Cortana ci risponde. Cortanax. Niente, sono questa, insomma, un'ora e mezza, è come se fossero due mondi completamente diversi. E ora non voglio dire, cioè, che comunque andare a Torino non ci siano certe situazioni piuttosto che a Milano, però a Milano come arrivi? Poi c'hanno sta cultura un po' loro, no? Che hanno il disprezzo, no? Per il meridionale, che in realtà il disprezzo per tu, esatto. Per oramai una volta era localizzato, oggi è generalizzato, cioè nel senso una sorta di disprezzo a 360 gradi. Che... Prima gli italiani, quindi bestemmiamo tutti a prescindere. Esatto, perché anche non mi sembravi un italiano, quindi io ti ho disprezzato. Però poi c'è, cioè, questo. No, bisogna disprezzare prima gli italiani. Cioè, che ah, prima gli italiani, prima giusto. Che tu alla fine ti rendi conto del fatto che. Come ne posso dire? C'è le due. C'è un clima che è un clima, come ne posso dire, molto esacerbato, molto caricato, molto fomentato chiaramente. Beh, soprattutto in questo periodo. In questo diciamo. Periodo dalla politica. E tu lo vedi che praticamente oramai la gente non c'ha più neanche quel minimo senso di. Come ne posso dire? Decenza. Decenza. Sì. Vabbè, praticamente al di là insomma dei rapporti generali che c'hai, che la gente con la cortesia di merda, diciamo che... Scusa, no, Lobster, guarda, io ho capito che tu vorresti che Pizzi parlasse del tassista, ma temo che se lo facesse ci servirebbe Luke dopo. No, ma ci arriviamo, perché lui era con noi. Lui, lo so, mi avete raccontato. Era con noi, lo so. E tu siamo andati a vedere Star... Allora, una cosa importante, siamo andati a vedere Star Wars, e questa bisogna dirlo assolutamente. Quindi, quando così. Non c'è Gualdi, sennò parte il riassunto. No, niente. Riassunto. Ci siamo andati a vedere Star Wars all'Arcadia. Posso dire una cosa? Non c'è niente da riassumere. No, infatti, che te vuoi riassumere? Cioè, sei riassunto da solo. Esatto. E esso stesso riassunto. All'Arcadia, che devo dire che dopo tanti anni... Dove, scusa, All'Arcadia. All'Arcadia. E questo, cioè, bisogna dire, dopo tanti anni finalmente siamo riusciti ad andare a vedere un film all'Arcadia, e devo dire che in effetti... Merita. Non tanto il discorso dell'IMAX in sé, che secondo me, cioè, nel senso, comunque anche quello di Roma non è... Ma tutto l'impianto audio veramente è una cosa che sta fuori. Aspetta, però scusami, io ho visto l'IMAX di Porta di Roma e ho visto l'Arcadia quando ancora non era IMAX, perché non ci vado da tanti anni, però la grandezza della sala non è paragonabile. L'Arcadia è 10 volte la sala IMAX. Progettare diversamente. No, ma per dire che l'effetto immagino sia enorme. Anche nel caso dell'IMAX, lo schermo sarà... Io ho lasciato lo schermo dell'Arcadia precedente, che era enorme, mi immagino che quello IMAX sia altrettanto. Quella Roma? No, quello all'Arcadia. L'Arcadia. Lo schermo IMAX della sala di Porta di Roma l'ho trovato anche piccolo rispetto all'Arcadia. Vabbè, comunque, al di là di questo, è bello, cioè, se tutto ti avvolge, se ti tremano tutte le cose. Marco, come non c'è è bello, è bello, è veramente bello, molto bello. Però la sera, poi giustamente dopo che abbiamo visto questo spettacolo fantastico, abbiamo provato le spade laser. Questo bel film di me. Ci siamo giocati con le spade, fatte le foto, le spade laser. È il film meno merda. Sì, di tutti e tre. Me. Sì, è vero. Anche se Rotten Tomatoes fa schifo. È il peggiore di tutti. Fa schifo. Secondo me no. Però tra tutti e tre, secondo me è quello che... Però c'ho un sacco di domande, tipo tecnicamente... Cioè, tutti No, infatti, non ne parliamo, perché ne parliamo un'altra puntata. Facciamo delle puntate scaglionate. Ma non ti devi fare domande. Andiamo a mangiare a un'hamburgeria. Mamma Burger. Andiamo a mangiare a un'hamburgeria dove le cameriere ci trattano di merda. Proprio. Perché prima gli italiani. Cioè, prima insultiamo. Andate a mangiare il sushi, terroni. Ma proprio, cioè, col disprezzo. Cioè, proprio. Io non ho mai trovato. Cioè, questi parlano troppi dialetti diversi. Cioè, quindi disprezzo totale. Cioè, proprio una cosa. Poi la cosa bella è vedere i milanesi. Quindi qui ce l'ho. Non ce l'ho. Nel senso, chiamo in causa anche Davide e Alex. Che secondo me loro sono. Cioè, nel senso, quindi Davide, perché Alex tutto fa meno che ascoltarci, diciamolo, no? No, sì, esatto. Però che faceva? Che fa? Loro dicono, ma non è mica hanno fatto niente. È perché per loro è normale, cioè, capite? È giusto così. Si insultano. E il giorno dopo prendiamo... Però aspetta, raccontiamo che ci ha accompagnato... Grazie Davide che ci ha accompagnato. Sì, perché lui ci ha Nico Bellic. Sì, lui ci ha accompagnato a vedere questo film nell'Arcadia nel frattempo, mentre lui diceva che lui guida bene, perché lui guida bene. Cioè, sì, per lui guida bene. Ma lui non è che il problema è che quando sta guidando, è quando fa le manovre, cioè lui ha fatto un'inversione in croce. Sì, esatto, fino a che va dritto va bene. Mentre è passato col rosso, però esatto. va bene. Non abbiamo subito danni. Assolutamente bene. E diciamo che non siamo sicuri se... Esternamente qualcuno ha subito danni o meno, però c'è, vabbè, uno che sta per essere investito sulle strisce, no, vabbè, diciamo, cioè, però anche lui che fa, te butti sulle strisce così. No, comunque va bene, a parte questa ma cosa, ma non che... è che perché ci sono le strisce puoi fare come te pare, scusa, oramai sta cosa di Davide Gatti si sa, insomma, noi lo chiamiamo Nico Bellic, e ciò nonostante tu ci vai in macchina non spaventato, cioè, ma curiosi, cioè lo vuoi vedere Nico Bellic all'opera, cioè no raga, devo imparare, perché ma secondo me non impara, perché ci vuole, c'è un qualcosa dentro. Però di scusa, te, posso dire, allora dobbiamo organizzare una cosa per forza. Dobbiamo mettere alla prova Davide Bellic con la guida romana. No, guarda, secondo me spacca il culo a tu. Cioè, io ho visto Davide parcheggiare in cose che neanche noi romani. Cioè, noi romani ci abbiamo una decenza. Ti dico questo, guarda, figurati, cioè, batte anche Campani, quindi? Quello non lo so. Però te devo dire che ci mancava solo che parcheggiavano dentro al portone del palazzo. E per loro è normale, cioè c'è una concezione del parcheggio che è diversa dalla nostra. Aspetta, Giuseppe Pugliese ci chiede, ma stavate a Torino o a Salerno? No, in questo caso si parlava di Milano. Eravamo ancora a Milano, esatto. Il giorno dopo saremmo spostati. Però c'era Salerno intorno a noi. Ma Sabrina? No, purtroppo ma, no. Quella no, perché Sabrina che Salerno che ti avvolge intorno è una bella sensazione. I marciapiedi di Milano, ci dice David, insiste che sono dei parcheggi. Quindi sì, va bene, sì. Va bene, Davide, va bene. No, Davide, no, ascolta, tu stai parlando di Napoli, non ti rendi conto di quello che dici. No, ma guarda che... Allora, però bisogna riconoscere che loro hanno dei marciapiedi enormi. Cioè, nel senso, tipo, veramente... Che perché è un peccato lasciarli inutilizzati. E allora, loro parcheggiano nella parte esterna del parcheggio e altri, quando non trovano il parcheggio, nella parte interna del parcheggio. Quindi, giustamente, cioè, la parte pedonale non esiste. Scusa, ma ci stanno sì marciapiedi grossi. Ma la gente, mando cazzo va in giro? Cioè, ma perché c'ha da andarsene in giro? Quindi giustamente come, ci parcheggia. Come mi disse la vecchia quando mi venne addosso a 90 anni dicendo qui noi andiamo di... Bello, ragazzi, il fronte milanese ha una risposta per tutto, perché Piergi dice di sera non passano i pedoni, quindi giustamente poi ci cioè, la gente c'ha il coprifuoco la sera. Sì. Vabbè, comunque il giorno dopo andiamo a vedere l'esercito di Terracotta e giustamente paghiamo l'albergo tutto quanto perché tanto ci saremmo spostati a Napoli. Per fare una cosa pratica. Come a Napoli? Sì, scusate, a Torino. Torino, cioè, vabbè, capiamo, perché sì, oramai è un po'... Non capiamo più un cazzo. No, non capiamo un cazzo. E praticamente che facciamo? Cioè i soldatini mortuari dell'imperatore Qin. Prendiamo questo fantastico taxi. Ragazzi, questo fantastico taxi, sapete quando a un certo punto, cioè, e questo è un po' da cinema secondo me, anche un po' David Lynch tutto sommato. Quelle conversazioni che partono in una certa maniera, poi cominciano a prendere una piega brutta, assurda, e tu all'inizio ti rendi conto che l'errore l'hai fatto tu perché la prima volta... non hai taciuto. Cioè no, tu hai sempre taciuto, però la prima volta tu ci hai fatto un sorriso sopra e quindi... E quindi ti sei palesato come simpatizzante. No, più che altro come di va bene, cioè nel senso tu la pensi così, ok, ci sorrido sopra, quindi tu sei incoraggiato a continuare ad estrinsecare il tuo pensiero. E questo è un problema, bisogna essere intolleranti. Esatto, con subito, da subito, guardi, non me ne frega un cazzo di quello che penso. Allora, tanto è arrivato sto taxi dove Marco Guardi è stato messo nell'angolo del canile, la parte del cane, esatto. C'era un posto in più che era il settimo posto, chiaramente, esatto, chiaramente il posto del cane ci hanno messo Gualdi. Poi durante il viaggio, Gualdi, dillo tu perché sennò... durante il viaggio praticamente c'era questo simpatico che è partito piano, l'ha parcheggiata piano, sì, raccontava del più e del meno di come Uber, che prendete Uber, siete stupidi. Fregalo, scusa, io vedete il mio nome, c'è il mio nome lì sopra, se succede qualche cosa voi mi prendete il nome non mi denunciate. Uber chi è? Potrebbe essere uno stupratore, un assassino. E già da lì i turisti avevano già capito quale piega della situazione. Perché no, Uber sì. È dato che è una cosa diversa, è stupratore, cioè è chiaro. È no, stupratore. Che... Però dal suo punto di vista c'è già una logica, no? Perché diceva tu, in effetti, non sai chi nella macchina di chi entri, non sai se sa guidare, se non sa guidare. Se non matto, io non penso che sia proprio così, però. Non comunque, è che perché fa il tassista sai guidare, però, eh. No, assolutamente. Davide Gatti però, potrebbe fare il tassista. Però c'è la targa, c'è la targhetta col numerino, allora tu mentre sei ferito, morto, a col te l'ha stuprato, però è stato il tassista 721, per dire, quindi tu capito, lo sai, è stato Monza 46, è stato Monza, certo. 46. No, e poi da lì lui, ah sì, va bene, mentre insultava Eugenia poverina, che diceva ma io sono stato Uber, ah ma ti hanno inculato, l'ho fatto bene, così, va bene, perché sei stupida, Michela, tu sei stupida che usi ma pure, perché pure Eugenia poverina, l'applicazione sì. L'applicazione no, l'applicazione cosa, My Taxi pure quella non andava bene, sei stupida che usi My Taxi. No, di chiamare me, cioè il mio nome sta accendendo. Di chiamare solo lui, praticamente. Vabbè, a parte quello, poi a un certo punto. Che strategicamente non fa la ricevuta, ovviamente. Io non ricordo, ovviamente. Non ricordo bene quando ha cominciato. Non a lo dire... so, perché sì, ci sta. Poi a un certo punto è uscito un Kalashnikov, non una K-46, un Mitra, una cosa, una storia su Mitra, che lui doveva avere un Mitra e uccidere la gente. Sì, sì, lui da sti taxi al fatto che se licenze non ci si capiva più niente. E poi e che gli italiani. Ben, la situazione sarebbe Davide. Vabbè. No, ma no, perché gli italiani sono ignoranti. Però lui sa. Se io avrei una pistola, ha detto così, questo è perché gli italiani sono ignoranti, io sparerei a tutti, ma non la pistola, ci vorrebbe il Kalashnikov, perché se tu entri dentro casa mia e mi vieni a rubare, io ti sparo. Ho capito, mi sembra una reazione un po' eccessiva, cioè qual è... perché sto casa sua era tipo la strada praticamente, cioè se tu gli passi davanti alla strada lui c'ha il diritto di sparare. Beh certo, tipo, un uomo della strada che Nicola Savino levate insomma, esatto, certo. una cosa così. E quindi perché tu che ti pensi, che tu prendi il leone, lo fai crescere come un guarda cane, guarda gli zingari, ma tu lo devi fare con gli zingari, cioè tu vuoi pensare che si adatta allo zingaro? Scusate, posso dire una cosa? Ma tu prendi un leone, no, lo fai vivere come un cane, ma poi quello è un leone, lo fa il cane, esatto. E gli zingari uguali, cioè il senso è tu prendi una persona, cioè, la educhi, la fai crescere da piccolo, lo prendi, no? Lo fai crescere come un bravo persona, cristiano, zingaro, ma lui in realtà ha detto è un zingaro, è geneticamente zingaro, non può essere, c'è proprio la razza dello zingaro. E quindi e poi a un certo punto mi ha cucciato un picoglione a me, tu cosa ne pensi, cosa ne pensi? Io ho detto guarda, io lascia perdere, io faccio parte di un'altra epoca dal punto di vista politico, no adesso tu mi dici cosa ne pensi, adesso mi dici cosa voti, dico no lascia perdere. Sono sceso dal taxi perché nel frattempo eravamo arrivati, questo mi ha inseguito, no su adesso mi dici cosa voti, capito, mica che qua siamo in democrazia, ognuno, cioè vabbè, io la vedo così ma che schifo, sei un compagno che Cina c'hanno il coso del pane e la tessera. Ma c'era pure Mussolini la testa del pane. Ma cazzo dici, qui ci vuole uno, no? Che prende il potere per 3 anni e poi dopo basta. Il potere assoluto, no, 2 anni, ragazzi, sistema le cose uno e poi chiede poi i poteri, uno a caso. Esatto. Io gli ho detto, scusa, ma secondo te, no? Dopo che uno ha preso il potere assoluto, no? Perché dopo 2 anni dovrebbe smettere? Ma andiamo via noi! Ecco. Noi chi? A posto, da sì, a posto. Vabbè, posso dire una cosa, Pizio? Allora, tutto questo racconto è assolutamente entusiasmante, però... è mio dovere informarti che nel frattempo in chat stanno organizzando il raduno dell'UGM in Campania. Quindi tu vai pure, ecco. Bene, io già, ho già fatto presente che penso che noi Fronda Romana ci uniremmo più che volentieri. Sì, io ho pure la ragazza a Napoli, ci vado già 2 volte al mese. Qual è il problema? Quindi insomma. Vabbè, comunque questa è stata la cosa. E poi vabbè, entriamo dentro all'esercito delle 12 scimmie lì, no? All'esercito di terracotta. E anche lì, cioè, tipo, Michela fa, dato che Lobby c'aveva lo zaino che non gli andava di lasciarlo, perché però era pesante, c'era tutta quanta la roba, gli fa, che lo possiamo lasciare qui dietro, insomma, la biglietteria? No, si può, perché qui ci sono i fili elettrici. Che cazzo c'entra? Ci sono i fili elettrici. Allora, ma Michela, non soddisfatta, che ha fatto? È andata a chiedere a direttamente alle signorine della cassa, che gli hanno risposto la stessa cosa, e lui... E lui si è incazzato. A caso dicevo io, non andava bene! C'ha ragione, però diceva, che cazzo, che vuoi chiedere a farlo? Ma proprio, cioè, questo... Non c'hanno i filtri, no, perché oramai oggi si sentono tutti giustificati. Invece a Torino, diciamo, facciamo un fast forward, andiamo un attimo a Torino. A Torino tutti io gentili. Adoro Torino, tutti devo dire gentili, la verità. Gentilissimi. Tranne tutti carini. L'automobilista però, medio. Però c'è un problema a Torino. Esatto. A Torino c'è un problema che penso sia sono che sono un automobilista, sono disciplinati, guidano dove devono però andare. Devono suonare. Però se tu ti fermi al semaforo rosso e scatta verde dopo mezzo centesimo, tu devi muovere, sennò continuano a suonare. Perché è una vita frenetica, sono tutti operai della Fiat, devono far valere la tromba. Prima che chiuda e si sposti tutto in sì, infatti io invito Lobby, dato che ci sta qui in chat, manda un messaggio vocale tipo di 1 minuto massimo e racconta sta storia del tassista a Napoli, che pure quella è... È un'altra bella storia, cioè io ovviamente la massimizzo a Milano perché fa più ride, no, il discorso, però se voi invece pensate, questa è una situazione seria, no, che tu vai in giro e la gente si permette oramai di esprimere con nonchalance il proprio disprezzo verso l'altri, che è una cosa inquietante, ragazzi, cioè... E proprio a tal proposito io direi che c'è un brano musicale fantastico. Anche perché ricordiamoci un piccolo messaggio di servizio: non ci possiamo più mortificare, perché ormai non siamo più mortificati, ma siamo gastricamente maleducati. Esatto. E comunque, quindi ne sentirete delle belle. Esatto. Io a questo punto lancerei un brano che è proprio un brano sulla tolleranza, cioè nel senso dice proprio che noi come la pensiamo. Noi possiamo servirci sul resto del mondo da compratori stranieri. E poi dopo vi diciamo anche di questo brano, così lo salutiamo e gli facciamo un grosso in bocca al lupo, perché questa è una cosa nuova che abbiamo scoperto da poco e che a me, te devo dire, quasi quasi mi piace sto brano. C'ero attivi assotto e spezie ben risotto, parenti sotto sfrato. E Bangla c'ha tutto, ma di antenne radio colle antiratto, c'ha l'adesivi per tu scotto, calzoni con disfatto, i remi per canotto. Ma tu non ci stai più e io non compro niente, per Bangla senza te un po' me si sorprende, perché non compro più per dentifricio glitterato, l'assorbenti doppio strato, per Bangla manco sa che m'hai lasciato come infesso, col cuore dentro a un fosso, ma camperò lo stesso, l'amore c'ha diritto di recesso. Oh, oh, oh, oh. Giochi dama e filetto, c'ha pure tegole per tetto, a merce col difetto, c'ha un sogno nel cassetto. E Bangla c'ha tutto, cuffiette stereo, vasi, luci, antifurto, c'ha pure il frigo mezzo rotto, se scala sopra e sotto, addio pure al chinotto. Ma tu non ce stai più e io non compro niente, per Bangla senza te un po' me si sorprende, perché non compro più per dentifricio glitterato, l'assorbenti doppio strato, per Bangla manco sa che m'hai lasciato come infesso, col cuore dentro a un fosso, ma camperò lo stesso, l'amore c'ha diritto di recesso. Air Bangla c'ha tutto, la Pagliata Funk. Pagliata Funk e la band sono, non sono nostri amici, non li conosciamo minimamente, ma conosciamo un membro, soprattutto il cantante, che è Claudio Camilli, che è stato anche ospite. Lo conoscete anche voi. Esatto, è stato anche ospite in Monnezza, OGM Ottimisti Genericamente Mortificati, quando era in quella maniera lì. Oggi lo riporteremo, spero presto, in OGM, oltranzisti gastricamente maleducati. Ma ragazzi, ma a proposito di musica del futuro, di gruppi emergenti, ma sapete che oggi è venuto in ufficio un artista, un cantante, un musicista, che ci ha chiesto, diciamo, la nostra consulenza per la gestione dell'immagine, sito web, eccetera. E chi la fa fare? No, ma la cosa divertente è che... Ma chi lo fa fare? Sì, quella è una domanda. Infatti, però, siccome non ha ancora accettato o declinato il preventivo, non domandiamocelo. Domandiamocelo dopo che ha accettato. Però la cosa che mi ha fatto sorridere è il genere di musica che fa, ragazzi. Lui è italiano. Ok. Il genere che interpreta è il K-pop... giapponese, no? Sì. coreano pop, sì, che è l'evoluzione del J-pop ed è famoso nelle Filippine. Ma è italiano? Sì, è italiano di Roma, quindi vabbè, insomma, questa cosa. Okay, ma che è un ragazzetto? Sì. Come si chiama? Fabio. Aspetta, perché ha i capelli blu, almeno nell'ultimo anno. È gay? Non gliel'ho chiesto, mettiamola così. Scusa, stiamo in diretta, non ci sto facendo caso. Comunque, vabbè, poi dopo ne parliamo, perché forse lo conosco. Va bene, comunque torniamo a noi e parliamo invece di... Ah, io ho visto un sacco di roba a sto periodo. Anch'io, devo dire la verità. Anzi no, devo dire, non, non ho visto un cazzo per un sacco di tempo e poi ho visto un sacco di roba tutta compressa. Ma che l'ultimo mese del 2019 ci è arrivato di tutto. Sì, è vero. Perché figo. Bravo, allora, bravo. Partiamo dalle cose spicciole, cioè da una cosa che Ovviamente nessuno di noi ha visto The Mandalorian perché in Italia non è ancora uscito, eh. No, però se l'avessimo visto, guarda, ci sarebbe piaciuto. Però ne parleremo più avanti. Ma io ne posso parlare anche adesso. No, perché non ho finito. Sono veggente. No. Va bene. Comunque, allora, partiamo da una cosa che dobbiamo vedere. Che insomma, come si dice, poi un giorno faremo questa rubrica. Poi metteremo una nuova rubrica dentro OGM. Però mentre come che si potrebbe chiamare? Sì, la previsione. La previsione, cioè nel senso, è una sorta di pre-recensione di un qualcosa che sta per uscire, che però è basata sul trailer, ma non nella recensione del trailer, la recensione dell'opera comunque in base al trailer, che insomma, ragazzi, ce ne vuole. E io farei sentire un attimo questa cosa. Sta per arrivare. Pensavate di essere sole al mondo. Perseguitate. Maledette. I nemici si preparano a distruggerci. Perché noi siamo il più grande pericolo per loro. Creare un mondo nuovo. Con volto di donna. Il nostro tempo è vicino. Vabbè, allora ragazzi, qui stiamo parlando, tanto è ripartita la basuccia, caruccia, insomma, qui stiamo parlando di un qualcosa. Prima di attaccare il discorso, metti 3-4 secondi di base e faccio una riflessione. Perché ancora nessuno mi ha portato il mio fottuto Barbon? Hai ragione, il fottuto, la prossima volta però, sì, è un po'... Perché strano, fondo, perché non ci siamo organizzati, cioè è stato tutto così veloce. È tutto così, cioè nel senso ci abbiamo pensato talmente poco tempo di rifare. Infatti, cioè, proprio oggi, stamattina. Però io, è bella questa idea di OGM dentro, esatto, al peggior bar di Caracas. Insomma, infatti quello che dovevamo fare all'inizio. Beh, questa non è musica da peggior bar di Caracas, no, è più lounge bar, okay, da hotel. Da peggior di Caracas. No, da hotel di un certo tipo nella grande... New Orleans. Compresa la putane, vabbè. Peggior bar di New Orleans, dai, così che c'è il jazz. Vabbè, allora io posso dire che questa cosa. Che no, allora prima di tutto, questa opera. Di che cosa abbiamo parlato? Abbiamo Luna sentito Nera. Il trailer di Luna Nera. Luna Nera. Ed che è il primo serial televisivo fantasy italiano. E chi lo produce? Sto cazzo. Netflix. Allora, e questo che indizi ci dà? No, vabbè. questo è. Però, allora, diciamo. L'idea non si sa. A noi il fantasy piace. Parla di streghe. Allora, cioè, aspetta, facciamo un preambolo. Siamo reduci da un altro fantasy che tutti quanti bene o male aspettavamo, che è The Witcher. Quindi, voglio dire, sì, no, perché dove guardi, scusa? Dove guardi? The Witcher. Che è fatto col cartone. Che è fatto col cartonato. Sì, diciamo che ci ha lasciato un po' perplesso la ricostruzione delle location. Dai, ragazzi, allora chiedo agli amici in chat. Vi ha dato, se avete visto The Witcher, vi ha dato l'impressione di essere un po', come dire, un po' poveraccetta nelle ambientazioni, soprattutto quelle cittadine, e soprattutto di notte con questi set in cui non c'era una stella in cielo, nemmeno un post-produzione? Non lo so, a me ha dato questa impressione. Poi ho fatto caso. Ma le stelle di Dudin ci ho fatto caso, manco Zombie io. Gatto è entrato. Esatto. Però, insomma, voglio dire. Scusa, l'ho appena toccata, è schizzata. Sta un po' un attimo ingrifata, non so per quale ragione. Comunque, vabbè. Allora, però aspetta, andiamo con ordine, perché sennò stiamo a far casino. Allora, la Luna Nera. La Luna Nera, primo serial televisivo fantasy italiano. Solo Luna Nera, senza la. Cioè, richiama un po' com'era Salem che noi stavamo vedendo, te lo ricordi quello che avevamo iniziato a vedere? Non era. No, le prime due stagioni non era manco male. Però non era manco di quelle. Di che si parla? De streghe nel medioevo italiano. Allora, visivamente il trailer si presta in modo decente. Non so se è un medioevo italiano. Sì, sì, è un medioevo italianeggiante, perché non, alla fine c'è effettivamente. Dovrebbe essere un fantasy proprio, sì, quindi fantasy. Cioè, nel senso, forse no. Un'Italia fantasy, non si sa. Però beh, non adesso è, lo capiremo. Lo capiremo. Non è storico, insomma. Non credo che assolutamente non penso che abbia nessuna velleità storica. Si parla di streghe, visivamente si presta abbastanza bene. Ci sono pure un paio di effetti speciali, un po' tipo fatti con After Effects, che gli volevo bene. Quindi va vabbè, bene, però per essere italiana, ah, no, apprezziamo. Infatti, apprezziamo. Il problema di fondo grosso, che sarà un grosso problema, e che speriamo che esca anche con la lingua inglese, così uno se lo sente direttamente in lingua inglese. Sì, ma sicuramente sì, una produzione come avete sentito, per tutti. L'interpretazione. La cagnanza purtroppo. Allora, cioè, la cagnanza ci può avere due spiegazioni, ma una non esclude l'altra, fondamentalmente. E poi in realtà tutte e due sono vere e tutte e due no. Che una, come dicevo io, magari a loro fuori onda, è il fatto che noi siamo abituati a sentire una voce impostata di intonazione, quindi voci addestrate, no? Anche, voci educate. Sono anche abituato a sentire uno che recita, che gli dà una cosa, okay. Qualcosa, però la monocorda. La recitazione, io lo noto. Di solito i doppiatori italiani hanno salvato da interpretazioni pessime anche attori, hanno rivalutato dei film. E infatti questi sono perché hanno preso degli attori, no? Non so tipo che tipo di attori siano, perché non so, non conosco nessuno, tipo. Però ci so, anche qui il problema è che si nota molto l'alto e il basso, cioè nel senso si notano delle impostazioni suono, più educate dal punto di vista recitativo proprio, secondo me quello, qualche cosa che allora quello però quello è molto più legato al fatto che tu non sei abituato a sentire l'audio in presa diretta, ma secondo me non sì, è in presa diretta. Presa diretta tutto, cioè proprio l'effetto, secondo me, cioè, o è qualche problema il trailer o non so. Secondo me dobbiamo esaminare la... Spieghiamoci un attimo una cosa. Se questa opera, come pensate voi, è doppiata, che potrebbe anche essere, perché magari è stata recitata in inglese, potrebbe anche le essere... produzioni internazionali potrebbe anche essere stata recitata in inglese. Si usa. Attenzione, era il video, non credo che sia lo stesso trailer, quello che ho postato stamattina sul nostro gruppo di MDB, se non sbaglio, era recitato in italiano e gli attori parlavano in italiano. Okay. Era visto perché si vedeva perché il labiale era italiano. Ok, perfetto. Allora, se non so se poi sopra ci hanno tradotto un inglese, probabilmente, ma penso che si sono rimessi ridoppi in italiano. Quello non lo so. Poi vediamo. Insomma, secondo me non lo hanno ridoppiato, perché se l'hanno ridoppiato facevano un lavoro. Esatto, avrebbero fatto un lavoro più educato, appunto. Però potrebbero chiedere riesumare Cannarsi e fargli magari viene fuori che ne so, una cosa. Sì, vabbè. Comunque, vabbè, il problema è che si sente la differenza tra la qualità e l'assoluta assenza di qualità, e questo è disturbante, perché chiaramente quando tu stai a vedere una cosa e magari ti prende, poi senti quella che gli scivola la recitazione a cazzo di cane, tipo, ricordiamo, un'opera cinematografica che noi ancora dobbiamo vedere. Ah, sì. Che è In the Market. Io che... quello, quando lo vedremo moriremo probabilmente. Ormai che io penso che il film più bruttamente recitato mai andato al cinema in Italia. Comunque, siamo curiosi. Diciamo che l'approccio è diffidente. Sì. Diffidente per la recitazione. Poi magari anche la qualità generale magari è una merda, però non lo sappiamo. C'erano degli effetti speciali che però potrebbe fare anche pizzico After Effects. Esatto. Però esatto, non vabbè. Ma oramai, tanto... vabbè, ma oggi... quel tipo di effettistica, insomma, ci sta. Dai, cioè nel senso costa poco. Quello che non ci ha convinto non tanto la trama, perché poi alla fine non abbiamo capito niente, però streghe. È la solita tinopera, secondo me, con lei che poverina scappa, che deve diventare la strega, lui che gli andrà contro, poi invece gli va a favore, poi vabbè, si innamora, guardi, no? Però pure Romeo e Giulietta era una tinopera, cioè. Facciamo 10 figli tutti streghini, vabbè, tutti queste streghini. Cose qui tutti i strighi streghini. Io penso che e qui sia... ci ricolleghiamo a The Witcher. Però in ogni caso, magari una o due puntate la vediamo. Magari ci piace. Magari no. Ragazzi, io però volevo approfittare del fatto che si parla di una serie italiana per dire una cosa. Okay. E cioè che si comincia a vedere finalmente, dopo tanti anni, probabilmente con Gomorra è nata questa percezione del fatto che si può fare un prodotto da esportazione con una qualità media superiore a quello a cui siamo abituati, e sono uscite quest'anno sono uscite un paio di serie per Gomorra, per quanto parli di napoletano, per quanto sia strana, astruso, però uno ce lo sente la recitazione. Il concetto è si è creato finalmente un concetto per cui anche in Italia si possono fare serie adatte non soltanto allo spettatore italiano e quindi curate con un po' d'attenzione. Ma ricorda che in Italia è stato fatto Fantachirò, ragazzi, mica che era una produzione con i controcoglioni, che poi dopo gli attori erano delle merde è un altro discorso, ma la produzione è una produzione con i controcoglioni. Beh, però io insomma quello a cui volevo fare però riferimento sono altre serie italiane che si stanno, come dire, elevando Matteo, un po' dalla massa. No, dai, fammelo dire, sono The Young Pop / The New Pop, che è la nuova stagione che è uscita adesso, coprodotta con HBO da Sky. Vabbè, appunto, Young Pop ci sono americani dietro, ma anche no, vabbè, però è una produzione italiana, tant'è che quando tu nella stessa stanza senti un dialogo tra Jude Law, Diane Keaton e Silvio Orlando, dici aspetta, il mondo è cambiato e non me ne sono reso conto. Ma anche un'altra serie, Silvio Orlando che recita in inglese, ricordiamo. Sì, e poi si doppia, esatto, a proposito di che per quanto bravo poi fatica un po', perché se non sei un doppiatore. E un'altra serie che secondo me merita di essere citata questa volta è una produzione Rai in collaborazione in qualche modo anche stavolta con HBO, che è L'Amica Geniale, che è una serie un po' particolare perché parla, diciamo, uno spaccato della vita di Napoli del secondo dopoguerra. E devo dire che anche qui, come dire, tanto di cappello, sta per uscire la seconda stagione. Guardatela perché è qualcosa di diverso dal solito, perlomeno. Bene, bene, bene, bene. Quindi, vabbè, quindi arriviamo al fatto che questo è stato un periodo, insomma, di forviero di grandi uscite. E appunto è uscito The Witcher. E The Witcher a alcuni è piaciuto. Toss a coin to your Witcher. Alcuni non è piaciuto. Diciamo che complessivamente noi l'abbiamo visto. La prima parte l'abbiamo vista con Lobby e Marco e anche Michela, che se l'è vista tutta, roba del genere. Allora, messo dal punto di vista di Michela, che comunque è una, come posso dire, aliena completamente al discorso da The Witcher, diciamo che le prime puntate, così come in effetti è stato riscontrato generalmente, non ci si capisce in cazzo, perché tutte le informazioni in un universo così complesso vengono buttate lì in mezzo. Poi piano piano, quando sta psicosi da informazione passa e si passa alla narrativa reale, io devo dire che mi è piaciuta. Mi è piaciuta proprio tanto, perché alla fine la storia è fica, c'è la giusta intensità, giusto anche carica di erotismo, c'è tutto quello che da The Witcher un po' t'aspetti, insomma. Allora, io che non ho letto i libri, che conosco sommariamente i giochi, dico, complessivamente mi ha divertito, mi ha intrattenuto, va bene. E al di là, diciamo, di qualche, diciamo così, defiance da un punto di vista tecnico, che può o non può essere condivisa a seconda delle opinioni, quello che mi ha reso un pochino difficile la visione, e sono riuscito a venirne a capo soltanto nell'ottavo episodio su 10, è la cronologia degli eventi, perché c'è un passare del tempo e c'è un salto temporale che non si capisce per niente, soprattutto se non conosci il contesto da cui è tratta la serie. Sì, è un po' l'elemento disorientante che alla fine, all'inizio, anche soprattutto all'inizio, per chi ovviamente viene dall'esterno, rende la cosa un po' più ostica. In effetti, diciamo che questa cosa va un po' de moda, sta questione della doppia linea temporale. In questo caso, secondo me, ma in realtà in questo caso non c'è, giocata, boh. Sì, però attenzione che in questo caso non c'è una doppia linea temporale. La linea temporale è una, no, però in realtà ci sono dei salti temporali che dovrebbero essere gestiti per dare un minimo di input allo spettatore, perché io posso capire che se da una puntata all'altra passano 10, 20, 30 anni e tu sei un Witcher, magari non invecchi di un giorno, ma se sei un giovane bardo me lo fai capire che sono passati 10 anni in qualche modo, glielo metti un elemento, no, che lo fa, perché che non sono passati 10 anni, cioè, lo sono passato, no, ascoltami, passato, io non posso meno. Non posso fare spoiler, no, però c'è un evento che poi porta tra, beh, Senilla è cresciuta, quindi esatto, e ne sono passati 15. E il bardo è identico tra prima che nascesse, sì, e dopo. E se io non so che sono passati quegli anni, ci metto tre puntate a capire, ma questi, ma no, che stanno degli a dire? Abili diversi, dai. Ah, beh, certo. Vabbè, boh, questo è un po' andare a cercare un po' il pelo. Cioè, allora, secondo me il problema è proprio che la linea narrativa all'inizio è veramente un po' confusa, proprio perché le informazioni e le ambientazioni sono tante. Dopo poi a un certo punto si riaggancia, sì, e, sì, poi alla fine funziona, alla fine pure, cioè, aggancia, nel senso, sì. Perché questo è un po', però ci vuole un po' di pazienza all'inizio con una serie come questa. Io sono abbastanza fiducioso che la seconda stagione sarà migliore. Però la stagione gli entreranno anche più soldi. Esatto. Sono uscito da questa serie soddisfatto. Altre volte dico, oh cazzo, cioè, però, no, cioè, quanti però abbiamo detto, no? Ciao, va giù, come dire, liscia, perché poi alla fine è anche abbastanza, nel complesso è un'opera abbastanza leggera, non è certamente Il Signore degli Anelli o Game of Thrones, quindi fondamentalmente scende giù liscia. Io sono rimasto leggermente, come dire, non deluso, però speravo in alcune, che si ripetessero alcune cose che non si sono, che si sono viste nei primi episodi. Mi è piaciuto molto il primo combattimento di Geralt quando arriva in città, con delle sequenze piuttosto originali proprio in termini, diciamo, di stuntman, di coreografia di combattimento. Ho detto, cavolo, se lo rifà più spesso durante i prossimi episodi, questa serie è proprio figa. Invece purtroppo questa cosa non si è ripetuta, e secondo me è un peccato, perché era un elemento originale rispetto a tante cose che, bene o male, sì, bene, fatte bene o fatte meno bene, abbiamo visto in tante altre serie. Forse ci saranno nella seconda stagione. Ma speriamo. Io però, combattimenti, penso che nei libri alla fine neanche tanti ce ne siano. Beh, c'è qualcosa, c'è, però voglio dire, qualcuno li ha contati. Nei libri, tipo, uccide qualcosa come una decina di mostri su 8 libri, quindi, cioè, non è tantissimo, perché sono, i mostri sono in via d'estinzione. Ma io non ti parlo del combattimento col mostro, però ti sto dicendo anche con gli altri, non è tanto, non sono tanto racconti di combattimento, ma di tutto quello che poi c'è girato. Vabbè, ma anche perché il primo libro alla fine è la raccolta dei fiabe ritrasformate in chiave The Witcher, quindi racconti, insomma, alla fine tutti racconti, sono tutta una serie di cose. Poi però la cosa bella, allora, e qui bisogna dire, allora, i showrunner hanno dichiarato che questa serie non si ispirava al videogioco, e secondo me è una delle più grosse stronzate che loro abbiano detto, perché comunque visivamente sì, esteticamente, visivamente è assolutamente ripreso dal videogioco, ma soprattutto il combattimento con la strige che finalmente abbiamo avuto, perché era bello vedere il fatto che era una cosa troppo fanservice da non mettere, che comunque alla fine secondo me ha funzionato, e la parte finale è identica alla sequenza introduttiva del primo videogioco, quindi c'è famosa, c'è pure sul libro però, penso. Famosa, sì sì, no, ma non hai capito, io ti parlo di richiamo visivo, cioè, capito, cioè, nel senso, non te so di che, ecco, è come sì, sì, i canoni estetici, è come Sarkozy che dice che il successo è grazie ai libri e non grazie ai videogiochi, cioè, cioè, capito, c'è tutta sta specie di un po' di e poi le dette di Yennefer. Sì, sì. Yennefer, sì. Però c'è stato tante dette, alla fine ci possiamo lamentare. Tutti, no, i nuovi, diciamo, tutte che, però, dai, non abbiamo ancora visto quelle. Lei è abbastanza sensuale, devo dire. Abbiamo visto quelle di Triss. Che, cioè, attenzione, no, Triss no. Ma devo dire che poi alcuni personaggi sono un po'. Secondo me il vivo deve ancora arrivare. Insomma, comunque, niente, ci tocca aspettare un po'. Però, c'ho un cavo XLR che. Credo che la seconda stagione arriverà fine 2021, inizio 2020. No, scusa, fine 2020, inizio 2021. 2021, insomma, ce ne vorrà un po'. Annetta, vabbè, anche più di un anno, credo. Sì, ma è il brutto di quando ormai ci hanno abituato a questo binge watching, no? Cioè, ti danno tutta la serie tutta insieme e tutta la bruci magari in un weekend perché ti appassiona e c'hai tempo. E l'attesa diventa ancora più snervante se ti è piaciuta, perché a quel punto tu ti rendi conto che in poche ore ti sei bruciato. Ma io, per esempio, non rivedo quasi mai niente. Quindi, perché vabbè. Perché però, a parte questi casi particolari, in realtà i tempi di pubblicazione delle stagioni su tante serie sono estremamente accorciati. Cioè, ormai sì, praticamente in 3 anni, in 3 anni è capace che escono 3-4. 4 stagioni di un'opera, quindi sì, tipo un'opera comunque e mezza. Comunque sono previsti degli spin-off, una serie animata. No, sì, sì, vabbè, comunque. E io invece ho visto, grazie a Marco, anche se ero un po' curioso perché ne avevo sentito parlare, però non mi è passata. Scusa, Simone, questo non è l'XLR, è quando entra l'interferenza del cellulare. No, pure l'altro giorno faceva. Vabbè, nel frattempo poi vibra il cellulare, quindi vabbè, guarda, senti. Vabbè, comunque, il problema di fondo è che ho visto sta serie che mi era completamente passata inosservata, e devo dire che secondo me non è stata neanche tanto pompata, però poi Marco mi dice che in realtà c'ha avuto un buon successo, non so quanto, che Watchmen, che la considero forse la più bella serie di questo genere che io abbia visto in tutta negli ultimi 10 anni, tiè. Proprio perché già a me le serie con i, insomma, con le maschere, comics, con i esatto, in realtà è che fa genere a sé, perché non lo puoi definire supereroistico, cioè prende spunti da tante cose, ma è un'opera comics, molto originale. Viene comunque dai fumetti, è una cosa, siccome che io avevo visto il fumetto, quello animato che fece la Rai, praticamente tutta quanta la storia, e mi era piaciuta, perché in il effetti fumetto animato? Sì, c'è, cioè, su YouTube, sì, è un hanno preso fumetto, la graphic novel, esatto, la graphic novel, e l'hanno animata con un attore che fa tutti, uomini, tutti donne, quanti, bambini, esatto. C'è, bellissimo. Però, non lo sapevo. Però se tu ti sforzi un attimo di seguirla, c'è tutta la storia originale di Watchmen, che a me mi è sempre piaciuta, perché comunque Watchmen è una storia originale, Comunque c'ha un taglio originale, questo approccio molto noir, decadente, e poi c'è, vabbè, c'è il dottor Manhattan, che vabbè, insomma, poi alla fine è comunque già de suo, no? Valeva come tipo di personaggio. Questa serie inizia in una maniera completamente disorientante, ti devi... devi aversi, cioè dovevi conoscere il libro, dovevi, cioè, conoscere la storia, puoi perché... anche farne a meno, puoi anche farne durante a meno, la però... serie ti spiegano tutto più o meno, sì, però o meno, se sì. Vedi il fumetto, cioè se vedi la graphic novel, se la leggi, oppure se vedi il video, capisci molte cose. Eppure questa serie inizia in un modo che non ti aspetti, cioè nel senso ti aspetti di andare a vedere una cosa e invece lì inizialmente è tutta un'altra, una storia molto basata sul razzismo, su questa storia un po' collaterale, sembra quasi una sorta di storia laterale di Watchmen, che poi invece alla fine piano piano ritorna ad essere quella che è la storia principale, con determinati personaggi che ritornano e che dopo inquadri piano piano, e quindi è quello che non ti aspetti e dopo diventa quello che ancora di più non ti sei aspettato, perché poi dopo che ti sei abituato al fatto che è una cosa, in realtà torna ad essere un'altra e tutto in qualche maniera ritorna, oltre a essere estremamente curato dal punto di vista tecnico, perché ci sono delle puntate, ragazzi, che se uno sta lì attento a guardare anche il background, i sottofondi, tutta la parte insomma di costruzione che è dietro anche alla storia, la puntata 6 che ormai ragazzi, e torniamo al concetto che HBO praticamente fa spacca cinema in televisione, sì, cioè sì, nel sì. Senso che non c'è un livello di qualità paragonabile ad oggi ad HBO, quindi quando c'è il sigillo HBO è come dire è sinonimo di garanzia perlomeno tecnica, poi magari l'opera in sé sì, può anche, no, cioè, può anche non piacere, perché poi io mi ricordo Band of Brothers è sicuramente una grande opera, però è una cioè, è propaganda pseudofascista. Volevo rispondere a Pier G che The Watchmen sì, è su Amazon. No, è su Sky. Su Sky, è sì, HBO, sì, HBO, tutto quello che è HBO hai ragione, hai ragione. È su Sky in Italia. Sapete che invece Tu che hai visto? Io ho visto, anch'io ho visto tante cose, alcune delle quali mi hanno divertito. Devo dire che ho visto la seconda stagione di Jack Ryan su Amazon Prime Video, carina, insomma, più o meno come la prima, se vi piace il genere spionistico, eccetera. Ho visto, questo è un film, non è una serie, è il puttanatone di Michael Bay su Netflix, che è Six sì, che Alex dice sempre di vederlo. Che è divertente perché, diciamo... Michael Bay è riuscito in qualche modo a togliere, diciamo così, a superare certi buonismi insiti nelle scene d'azione in auto, in cui la gente fondamentalmente corrono come matti in mezzo alle strade, non investono mai nessuno, non si fa mai male nessuno, e ha fatto praticamente, come dire, ha ottenuto l'effetto opposto, perché ha fatto diventare... gli incidenti collaterali durante un inseguimento in macchina per Firenze presente uno splatter movie, con tanto di pezzi di corpo, di occhi che volano. Comunque, vabbè, il film non ha molto. C'è una scena che per me vale tutto il film, che vale la storia mondiale del cinema, perché c'è questo protagonista che è quasi un Elon Musk, perché è un ricco inventore. Pensate, questo non è spoiler, lo posso raccontare. Il protagonista del film, che è Ryan Reynolds, nella storia è diventato ricco perché ha brevettato i magneti al neodimio. Al neodimio, che sono quelli che vengono utilizzati nelle casse per la musica, eccetera. Tant'è che a un certo punto, per collaudare un'invenzione che lui ha fatto, collega un lettore MP3 a palla a delle enormi casse di neodimio e parte il suono del THX, quello che ti riempiva. Esatto, quella cosa sarebbe stata da vedere al cinema solo per quello. Il resto del film è il classico capolavoro senza arte né parte, con tre righe di trama. Ma la cosa più assurda del film, vedetelo, è che a un certo parte ambientato a Firenze, ed è scene girate a Firenze, dichiaratamente a Firenze, fino a lì tutto pacifico, con gente di Firenze che bestemmia ancora. Esatto, la seconda parte del film però diventa grottesca, perché è ambientata in questo stato ipotetico del Turkistan, dove c'è questo dittatore Zamunda, che è un modo forse per dire Turchia. Tant'è che siccome servivano delle inquadrature, diciamo degli scenari un po' come dire bizantineschi, come lo definiamo l'architettura, hanno scelto di girare a Taranto. Non dicendo che è Taranto, ma dicendo che è la capitale del Turkistan, dove a un certo punto c'è una manifestazione E ci sono i cartelli, le insegne in italiana. No, ci sono, quasi, esatto, perché ci sono le insegne sullo sfondo di attività commerciali palesemente italiane. Se sei italiano, le leggi e le riconosci. Ma anche se sei in inglese, penso che tu... Ma no, questo... in realtà per l'americani è diverso dall'inglese, quindi è certo, tu è turco. Infatti quindi. Per l'americano va bene. Poi c'è questo mega, questa scena di questo mega yacht che lascia... Sta in Puglia, no? Esatto, sì, tra l'altro abbiamo determinato che per l'americano medio l'Iran è in Puglia, quindi tutto quadra. Invece ho visto, e qui si rafforza ancora una volta la tesi, che se da una parte Netflix... Comunque Zio Mischi dice che Jack Ryan ha chiuso la prima stagione con una delle puntate più brutte e assurde della storia del... Sì, diciamo che il finale della prima stagione è stato un po' così, però la seconda stagione, che cambia completamente un contesto geografico, si lascia guardare. Invece, e torno alle serie di questo genere, ho iniziato, non ho ancora finito perché ho iniziato l'altro giorno, una serie che secondo me è molto carina, anche qui Amazon, dicevo, tende a fare più qualità che quantità. È uscita la serie derivata dalle storie di Jason Bourne, Jason Christ, Jason, okay. Christ, di Jason Bourne, Jesus Christ, tratto quindi dalla serie di The Bourne Identity, eccetera, che si chiama chiama Treadstone, che è la storia di altri agenti dormienti in giro per il mondo. Devo dire che a me piace il genere, quindi la sto guardando con un certo piacere. Ma comunque questo è un periodo che è uscita e sta uscendo un sacco di roba, sì, quindi noi ci abbiamo in parcheggio The Expanse, uscirà altra roba, uscirà quell'argomento lì, dalla prossima puntata parleremo di quella cosa lì. Beh, io però voglio fare un piccolo accenno a questa cosa qua, perché come abbiamo detto è uscita l'ultima stagione di The Expanse, che chiaramente noi siamo in fortissima attesa di vedercela, però purtroppo, come sapete, il 24 esce Star Trek Picard, che è la serie... Ma come purtroppo? No, purtroppo... No, scusa, infatti non so perché ho detto purtroppo. Comunque, Star Trek Picard, purtroppo, che... perché è il 24. Esatto, perché è il 24, che esatto. È vigilia. Io pensavo che era il 20, che era stasera. Sarebbe saltato GM senza più e pari proprio. Però è la serie Trek che aspetto con un po' di... non trepidazione, però... Con tanta speranza. Ecco, questa volta ce l'ho delle aspettative, perché ce l'hanno caricate bene. Diciamo che l'ha caricata bene anche Patrick Stewart, che di per sé dovrebbe rappresentare una sorta di garanzia. Ma della serie, di per sé, anche un piccolo cappello su quello che erano le nostre aspettative e quello che è stata la prima puntata, ne parleremo nel prossimo episodio di OGM. Però... Nel prossimo parleremo del primo episodio. Del primo episodio, però... partiamo da quello che ci aspettavamo a quello che abbiamo visto nel primo episodio, che sarà sicuramente il vecchio che va a trovare tutti gli amici e tutti, questa cosa un po' revival, un po' andiamo nello spazio, speriamo che si ritroveranno una serie di personaggi, come dire, abituali della Next Generation, sì, più di quelli che secondo me lo possiamo dire, trailer ci sono, quindi ci sono ovviamente William Riker e sua moglie Diana Troy, c'è 7 di 9, sempre più bella, quella donna invecchiando diventa sempre più bella, c'ha un fascino notevole che perlomeno a me piace molto, Jerry Ryan. Poi chi altro torna? Before, Data, non sappiamo bene in quale configurazione, lo scopriremo sicuramente già, penso, dalle primissime. Ma secondo me io faccio una scommessa, 5 euro sul tavolo, che secondo me c'è pure Worf. Buttata là, eh. Però detto questo, Fai? Non glielo fai fare un cameo, una comparsata, qualcosa? Secondo me, bene o male, li fanno ricicciare. A un certo punto dovranno andare su Klingon. E chi ci sta? Worf. Il povero Wesley Crusher, secondo me, non ci sarà. Beh, anche perché a Will Wheaton gli fanno fare lo show, quello post diretto, davvero? Sì. Speriamo che lo facciano. Beh, lui è un tossico dipendente, chiaramente fallito oramai nella vita, e che è rimasto attaccato a quest'unica cosa che c'ha, perché insomma si vede che è un uomo bruciatissimo, però poverino, insomma, vabbè. Io ogni tanto l'ho visto nelle sue partecipazioni a The Big Bang Theory, è bruciatissimo. In realtà, insomma, non è che... No, bruciatissimo, dai. Comunque, sono usciti diversi articoli, e qui chiudiamo un po' l'argomento, durante queste settimane, che hanno detto: se proprio vi volete riapprocciare a Star Trek Picard, che, come dice Picard, non è il seguito di Next Generation, ma chiaramente parte da un qualcosa, da una lore. La quest è un qualcosa che Picard ha lasciato in sospeso. Ok, quindi delle questioni praticamente che lo riguardano. Si chiama Picard, mica si chiama Next Generation Picard. Allora, tra tutti quanti gli articoli, chi dice no, dove vedete questi tre episodi, chi vedete questi qui, tre, quattro episodi, chi vedete questi 27 abbiamo episodi, un compendio, noi, noi ci siamo fatti una piccola lista, che noi siamo arrivati quasi a tre quarti di questa lista e probabilmente non ce la faremo a finirla, però insomma è veramente una puntata a settimana, quindi. È veramente tanta roba. Io vi aggiungo anche delle puntate che praticamente non sono, cioè nel senso, vabbè, non fanno parte di questa lista, però perché non ce l'ho messa io, perché la prima puntata va assolutamente vista di The Next Generation, che è appuntamento a Farpoint, contro a Farpoint, ti esatto, prego, incontro contro a Farpoint. Poi c'è la seconda puntata da vedere, è Data Lore, perché ovviamente c'è Data 5, e c'è Lore, la puntata 5 della prima stagione. Poi si passa alla 209, La misura di un uomo, che è molto bella come puntata, perché è anche lì c'è il discorso dei diritti di Data. Poi la 304, che è Prima direttiva, che sì, potrebbe non c'entrare in niente, ma in realtà ti spiega un po' come Picard, come in realtà se ci sono problemi di conflitto di prima direttiva, come dice Pizzi, siluro fotonico e risolvi esatto. Salomonico, il siluro salomonico, esatto. Poi aspetta che la mi so perso, famiglie, che è molto bella perché comunque è il racconto di Picard e altre famiglie, ma in particolare di Picard e della sua vigna lì alla... in realtà manca la puntata l'attacco dei Borg. Sì, c'è anche l'attacco dei Borg. C'è l'attacco dei Borg. Bisogna ricordare l'excursus Locutus, perché Picard non è solo Picard, è anche Locutus. Che è la puntata precedente, cioè sarebbe la 401 praticamente. Quindi c'è l'attacco dei Borg. Dove l'ultima puntata della terza stagione, vabbè, sì, dai, comunque, la prima puntata della quarta stagione, e la puntata. Seconda puntata. Era il famoso cliffhangerone, perché Star Trek ogni stagione finiva esatto, con l'attacco dei Borg. E poi c'è famiglie, perché ovviamente c'è questa cosa del trauma dei Picard. Sì, zio, dopo mettiamo la lista in chat. Ok, poi c'è la 502 Darmok, che voi ricordate, Darmok, Shaka Jamagra, quando cambiano le mura, quando Picard incontra questa razza aliena che parlava solo per metafore, non so se ve lo ricordate. I figli di Tamar. Esatto. I figli del Tamar. E poi c'è la 519, che è Primo dovere, che è la quando Crusher fa coglione, esatto. Che praticamente viene quasi espulso dall'Accademia della Flotta Stellare. 523 Io Borg, che è fondamentale questa, chiaramente. La storia di Tug. Perché c'è Tug che probabilmente ritornerà, cioè anche qui c'è la storia di un qualcosa che lui dovrà risolvere. Quindi 525, Una vita per ricordare, io questa la bypasserei. In realtà serve, probabilmente ci sarà un richiamo anche a questo episodio, probabilmente il piffero, non so cosa. Non so se vi ricordate, è quando loro incontrano quella sonda e Picard praticamente viene proiettato nella vita di un altro. Esatto, viene proiettato nell'intero arco della vita, negli ultimi 20-30 anni della vita di questo personaggio. Che praticamente scopre che il suo pianeta sta morendo, esatto. E che poi fa parte del progetto per mantenere la memoria. Esatto, per inviare praticamente la memoria della loro civiltà. Ricordatevi di noi. Poi c'è la 6-10-11, Il peso del comando, che a dire il vero non ci siamo arrivati, non mi ricordo neanche bene qual è. No, è quello del quando lui viene praticamente. Ah sì sì, è quella dei Cardassiani, giusto? Okay, io vedo quattro luci lì, esatto. Poi la 6-18, Complotto a bordo, questa ce dobbiamo ancora arrivare. Questa veramente forse ho capito qual è. E poi ovviamente c'è la 7-25-26, che ieri, oggi e domani, che è l'ultima puntata. Tu dici, beh, è finito qui? No, perché in realtà ci sarebbe Primo contatto, una puntata di Voyager, che è la 5-24 Relativity. E poi c'è ovviamente Nemesis. C'è Nemesis, che io l'epilogo finora, che è praticamente è questo qua. Adesso ve lo copio in chat tutta questa cosa. Ovviamente però, tre puntate che... però sì, in realtà sì, mancano delle puntate, diciamo che però. Ovviamente è tutto visibile per quanto concerne le serie su TV su Netflix. Netflix, i film li trovate invece su Amazon Prime Video. Okay. Qualora, insomma, queste sono le puntate, ma manca appunto l'attacco dei Borg, che è Prima di famiglie, manca Data Lore e manca appuntamento a Farpoint, l'incontro a Farpoint, com'era insomma la questione. Quindi, grossa attesa. Svano, tu qual è il tuo livello di hype, diciamo così? È alto, perché ho voluto benissimo a quei personaggi, quindi diciamo di tutto l'universo star trekkiano, io ero tra quelli che la notte in estate facevo le tre per registrare in VHS gli episodi che Italia 1 faceva in orari veramente antelucani, quindi tutto quello che è la Next Generation, il buon Picard, il buon Data, io lo rivedo, lo aspetto con ansia, quindi ho paura, perché ovviamente... In questo caso l'aspettativa è talmente alta e che il timore poi di rimanere deluso ovviamente mi, come dire, mi pervade. E vabbè, d'altronde bisogna metterlo in conto anche questo, però possiamo dire che per quanto da ragazzini eravamo affezionati a Kirk, Picard gli spacca il culo. Beh, ma anzitutto Picard ha avuto un arco narrativo molto sarà arrogante per essere sarà, costruito come dice arrogante anche faccio ragazzo però è ma chi questo è la flotta stellare è Picard sempre no, Picard non è arrogante Picard è come sempre dire definito arrogante è rigido non sì, è arrogante è rigoroso. Però è rigoroso. Diciamo che come dice come diceva Walter in 7 stagioni ci hanno avuto il tempo di sviluppare i personaggi ma secondo me The Next Generation è l'essenza totale di Star Trek così come la voleva come la voleva Gene Roddenberry, cioè il fatto che lui ha avuto l'opportunità di compiere la sua opera perché c'erano più risorse, c'erano più possibilità. Non solo, comunque sia negli anni della serie classica c'era comunque una guerra fredda in atto di un certo tipo, potevi cercare di essere come dire inclusivo ma fino a un certo punto seconda metà degli anni 80 ovviamente c'erano ha avuto tutta una libertà serie narrativa diversa. Sì, vabbè, ma infatti poi vabbè c'è già il fatto capito che c'è nella prima puntata quando c'è Pike, una puntata pilota quella che poi The Cage che lui dice non sono abituato a vedere donne ufficiali in plancia, cioè capisci che era talmente lontano proprio l'utopia di Star Trek da quella società, era veramente lontanissima. Sì. Negli anni 80 già il discorso poteva essere un po' diverso. Ricordiamo no? Che non è tanto quello che fece tantissimo scalpore non era la donna sulla in plancia, era il russo in plancia e giapponese pure. Ah beh, okay, sì. Però il russo sì è vero. Il russo era proprio il nemico quindi. Comunque detto questo secondo me appunto forse quella è stata la però ecco nonostante soffro nel dirlo però William Shatner scansate proprio perché mi dispiace ma veramente Patrick Stewart ha rubato totalmente la scena e secondo me è il capitano dei capitani nella saga di Star Trek insomma detto questo perché Riker è un po' ricorda di più esatto sì, Riker infatti il... lì si completano bene perché Riker è il Big Jim esatto. Shatner e mentre che invece Picard alla fine è più una posa perché dopo quando anche evolve il personaggio lui è il primo ufficiale perfetto perché gli impedisce di fare le cazzate lo tiene sempre in sicurezza no? Sì. E invece Picard è la flotta stellare invece cioè. C'è Worf che uccidiamoli tutti sì, sì, no, è bello Worf voi cosa ne pensate? Ma no, forse spariamo, potrebbero spariamo uccidiamoli tutti e poi tutti spariamo vabbè. Come ultima risorsa spariamo vabbè. Quello non so io mi auguro che tutti i nostri ascoltatori abbiano visto il trailer che gira già da un po' quello che mi come dire che mi fa sognare è il fatto che ci sia una almeno dei trailer una certa ricchezza diciamo di ambientazioni che ovviamente va in antitesi con le serie televisive di Star Trek Next Generation a cui eravamo abituati non stiamo vabbè. Sulla plancia di una nave vabbè sono passati pure quindi insomma quello insomma. Può essere il valore aggiunto poi mi preoccupa vedere questo specie di Romulelfo che pare quasi Tauren un po' sì. Però vabbè vediamo un po'. Vabbè, ma d'altronde i vulcaniani erano gli elfi de Star Trek insomma alla fine cioè, poi però vabbè, detto questo ragazzi, io direi che per questa puntata ci siamo, l'hype c'è, Marco è pronto, noi venerdì sera saremo, purtroppo un episodio a settimana ragazzi, perché penso io ci farei la notte intera. Aspetta, venerdì esce su CBS All Access o su Amazon? Il 24 è in Italia, il 23 esce in America. Ok, il 24 è in Italia, benissimo. Quindi, detto questo, poi guardatevi anche gli short track che sono usciti, ci sono due esperimenti animati veramente molto carini, tra l'altro, e poi probabilmente a qualche mese di distanza da Picard uscirà anche Voyager, che è stato annunciato che arriverà Discovery. Dai, cazzo, Discovery, hai ragione. Discovery. Che dicono che arriverà molto prima di quello che in realtà ci aspettavamo. Ma noi, molto insomma. Prima perché inizialmente era stato annunciato per il 2021, secondo me comunque sarà fine 2020, sì. Non lo so, vediamo. Perché la serie l'hanno conclusa. Sì, però la rete in cui viene trasmessa in America è la stessa che CBS All Access, quindi sì, non se le sovrapporrà. Probabilmente a settembre, secondo me. Potrebbe essere. Va bene. Detto questo, io ringrazio e saluto sempre con tanto affetto Marco Gualdi. Ciao, ricordatevi di mandare la vostra scusa per non seguirci. Mandateci messaggi su MDB The Original. Se volete via mail a gm.runtime@gmail.com. Non sa più queste cose. Mandate i vostri messaggi audio, mi raccomando. E ringrazio e saluto ovviamente Walter Sbano. Ragazzi, io ringrazio tutti quelli che sono tornati ad ascoltarci. Che sono commosso perché veramente gli mancavamo. Questa cosa mi. Ma non è vero, non è vero. Sì, l'ho fatto per compassione. Fammici credere. Una richiesta, Pizzi, siccome è piaciuta tantissimo, chiudiamo con la sigla di apertura. No, dai, no. Dai, è piaciuta troppo. No, ce la teniamo giocata per la prossima settimana. Perché mi piace chiudere con questo gezzetto che sale e noi ce ne andiamo a fanculo col bicchiere di Bourbon tra le mani. Che non c'è, però la prossima settimana dai, ci sarà. Ci organizziamo. Ci sarà la prossima settimana Bourbon a tutto spiano. Così la puntata viene anche meglio. Diciamocelo. Insomma. Dopo il secondo terzo, apri Amazon e cerca Bourbon. Bene, ringrazio Marco, ringrazio Walter. Buonanotte, ciao a tutti, ragazzi. È uscito William Shatner. La ricerca Amazon Barbon. va bene, vi ringrazio a tutti, buonanotte e ci vediamo alla prossima puntata, mi raccomando, sempre qui su OGM e sempre su Runtime. Oltranzisti gastricamente maleducati.